qualcuno? Hola. Hola, hola, hola. Lascia vedere, ok. Hola. Hola, hola. Massimo. Hola, hola, hola. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Uscendo male, sono Antone. Non ho capito. Sta uscendo male. Ancora male sto uscendo. No, non si capisce cosa stai dicendo. Guarda adesso. Aspetta. E adesso com'è? Ma Antone, tu sì. Antone. Che è avanti? Che c'è, Antone, tu sì. Ehi, Antone, sono, come sto uscendo? Che c'è tutto boh. Cazzo, mi stai facendo tutto qua. Abbassa qualcosa, ragazzo, perché non si capisce. Aspetta. Ascolta, ma... No. Così va meglio? Non c'è radio, non c'è radio. C'è attacchi e poi non si capisce nulla. Così va bene? Non ti sento tanto, non ti capisco, capito? Abbassa qualcosa tu, abbassa qualcosa che sta uscendo male. Guarda, fratello, Giovanni, meglio va adesso. C'è tutto strappato, capito? C'è tutto strappato. Strano, però. Hola. Oh, forse a te strappa, aspetta che abbasso il watt. Beh, Giovanni. Adesso di callare, non avevo mai il buio. Vai da vedere, meglio andava. Avanti, avanti andava. Prima si capiva niente, tu, cazzo. Era tutto e attraccheggiato, capito? Ma va una bomba, perché non sai cos'è, che segnale. Sicuramente arrivavo fortissimo per quello, oltre il limite. È per quello che è successo quello. Chi c'è adesso in frequenza? Adesso ho abbassato anche il segnale, se no è 45 e la radio è comprensibile, capito? Ma prima non si capiva niente, la fondo scala è tutto capito? Sì, non credo io, nuda da rivia, te bionda. Cazzo, arrivavo più del doppio, non credo che era così. Adesso mi sono attrezzato in camera da letto, ho tolto quel baracchinetto e ci ho messo questo che è molto meglio. Ho provato a accendere lì stasera, ho già acceso anche l'altra sera, ma non è che mi abbia tanta voglia, già lo sai, per cui quindi ho voluto accendere, vedo un po' se c'era qualcuno, ma col cuore c'è stasera, tutti morti sono. Capo, ma ce n'era un altro che è entrato, chi è che è entrato? Non è entrato nessuno, solo tu e basta. Ciao Antonio, ciao Giovanni. Oh, ciao, beh, meno male. Sì, gli ho messo la gallà, tutto a posto. Bene, mi ascoltate, sì. Io ci sento bene, fra, la voglia. Cazzo, una cannonata, più bene così, noi siamo vicinissimo, per cui va bene. Come ci sono arrivato io, non so se ci sono arrivato bene o male. 9.25, sì, Radio Super 5, va bene. Ciao a te, buonasera. Buonasera, è aumentato la potenza, com'è di segnale? C'è 9.45 da me. Cappa, forse Giovanna non comincia più a sentirmi, giusto? E allora, a me arriva di sorto, Troppo forte il segnale, non che si vedono le antenne. Metti come era prima, dai. Almeno ti capisco, ma così non riesco a capirti. Tra qua arriva benissimo. E anche tu poc'anzi stavi arrivando bene. Prima no, ma dopo hai migliorato, dai, riesco a capire. Sono troppo vicini e per cui se aumenti non ti capisco. Avanti fa. Questa è la riprendo io. No, stavo spolverando qua, c'avevo un uomo di tempo fermi. Adesso gli accenno a vedere se c'è qualcuno così. Volevo vedere se stavano andando bene questa radio. Alla grande, fra, alla grande. Si sente bene questo Wintech, me l'ho messo in camera da letto con l'MP più 4, almeno la sera posso farmi la chiacchierata, ragazzi. Hai fatto bene. Ok, sì Giovanni, stai arrivando bene anche tu, non c'è problema. Siamo vicini a Antonio, capito? Adesso mi sta arrivando bene, ma poc'anzi è tutto risolto, perché si attaccano, non capisco niente, capito? Mentre adesso sta arrivando bene. MB più 4, ma alla grande con Intec, funziona bene, dai. Fatto una modifichetta, attaccato la colonnina, vi sento non bene, no, di più vi intendo. Aggiungiamo il suo maracchinetto, ma fa un po' di fare il mio vento, non farà nulla, non vale. E che baracchinetto era? Va bene, certo, cosa ho messo a fare, ragazzi? Siamo due colori di clappa, uno vicino all'altro, per cui non ho bisogno, così va benissimo. Con questa roba ci saltano tutti, non ho bisogno di aumentare. Confermi fra. Questo è L, dai. A te voglio provare una radio, Giovanni, che ce l'avevo un bel di tempo ferma, se funziona ancora. Dai, adesso siamo qua, vai. Capito anche com'è la faccenda. Siamo attaccati all'altro, è chiaro che aumentando siamo troppo vicino, ti sento male, capito? Però adesso va benissimo, lascia così e per cui già ti sento come anche tutti, sei tranquillo. Appagato, sono contento, va, mi sono piazzato questo, è una bomba, è una bomba orologeria. Si ribasso un po' le note, va bene, me lo metto dentro il comodino, a me, ecco qua, a me, che almeno la sera posso, Gio Maria, ce l'hai l'FM che lo voglio provare? Su questo apparecchio non ce l'ho, su questo apparecchio non c'è l'FM, c'è tutto a meno dell'FM, però aspetta che accendo l'altro, vai, che c'è l'FM, un attimino, vai, riprendi magari con Franco un attimino. E a tu, a me bene mi ascolti con questo? Benissimo. Va bene? Sì. Volevo fare una prova in FM a vedere come esce. Oh, va bye. Hola, buona vedere, com'è una femme? Un cazzo. Mi senti tu? Io non ti sento. C'è la comunicazione per mamma, tu mi senti a me? Io ti sento perfetto ancora, va benissimo in effetti. Guarda, ma io la femme non bene. Ma un apparecchio all'altro cambia anche, capito? Lo sai che da un apparecchio all'altro cambia la ricezione, tutto un'altra cosa. Avanti fra! Adesso andiamo a tornare a M. Pazzo sembra! Basso. Oh, vabbè, dai, già funziona, dai. Scusa, va, c'è la cannonata, va bene così, è sempre, va benissimo. Io sono già luce nel 2007, va. Esatto, per cui va via buonissima. Adesso sì, adesso sei tu. Terminatore, com'è questa? fanno bene, poi la ricezione degli apparecchi non sono tutti uguali, più o meno, capito? E per cui, ah, ci sentiamo, siamo vicinissimi, capito? Ehi, ehi, avanti a tu. Ho detto che sei libero domani. Domani cos'è? Domenica? Non ho capito. Non so se faccio in campagna, devo vedere se non piove. E mi sembra che ci abbia tutta questa settimana la pioggia, le piogge, boh, vediamo un po'. E vabbè, e se piove già fa bene, dai. Lì siamo a secco, chiamo, così che meglio che piova, sennò in estate siamo male. Se non piove è un problema. Se va secco, ma ha finito a mancare l'acqua, cazzo, boh, ogni tanto mancareva, cazzo, non si compra di nulla, a parola, infatti, facendo a contrario. Mi stavo dicendo, questa radio bene va, Giovanni. Ma è il passaggio più lungo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io ti sento perfetto, va, va benissimo la radio, bella chiara. No, volevo sapere se stava andando bene, tutto lì. A posto la radio, capito? L'antenna c'è sempre quella là, no? Quello qua era la tua, ciò. Com'è il microfono originale? Stava bene. A Puglia. E bene così. Ehi, vabbè. Già andava. Cappa. Perché sto facendo le prove, capito? Franco, prova al volo. Prova in FM a vedere come ti sento col microfono originale. Ma che non mi senti, ti divento. Che così mi faccio io, tu? Capa, stavo facendo delle prove col microfono normale. È spostata tu, c'è qualcosa in FM, non va quella radio. Ma perché un bel bassa era? Che radio è? Cos'è l'Intec? Un Intec. Offra! Ehi, Giovanni, dimmi. Ciao anche a te. Mi prendo, fra, io chiuso. Ciao Giovanni, contraccambiato tutto da parte mia, dalla mia 50, dai, ci riascoltiamo, ci risentiamo. Ok, già va bene, rivai a tu. Papa, mi sa che mi metto là la 48 qua e via, perché non andava visto. E tu, Barac, non c'è più l'altro anche, il Cobra. Sì, ma non è cazzo, il camerale, sono un bongo. Io sto usando questo sempre. Cappa, dai, faccio un cambio, veloce, questo lo tolgo perché pensavo che fosse meglio, invece mi metto la 48 qua che è meglio, va. Sì, vabbè, dai, fai chiamata che sono al computer, sto facendo gli aggiornamenti. Hola. Che è avanti? Antonio, tu sei. Cappa, chi è? Ehi, Marco da questa parte, stavo ascoltando le prove che stavate facendo in FM. Cappa, come ti sembra questa? Buona? Questa è il 48. Sì, tonalità, sì, un po' basse. Sai cos'è, io ti sto ascoltando con un apparato non veicolare. Ti sto ascoltando con un portatile, però ti sento bene, sembrerebbe. Cappa, affermata ciò, no, va bene. Oh, qua va bene. E tu come ti senti, Antu? Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Bene, provo un FM, benissimo. No, non ce l'ho l'FM, questo c'ha solo l'AM, sto portatile, Antu. Portatile con batteria e aiutino. Ciao. Già va bene, dai. No, ma sai perché? Perché ha solo 2 watt, questo c'ha 2 watt scarsi con la batteria e quindi magari qualcosina l'ho dovuta aggiungere, dai. Gappa, gappa. Dai, vado a prendere il bambino ora, dai, mi devo spostare. E Anto, tanto la prova anch'io l'ho fatta, dai, ho fatto in tempo a attaccare l'apparato e sei entrato tu. Ci sentiamo, Anto, ciao, buona serata. Ciao, ciao, buona serata.